Hong Kong e lo scontro con la Cina, e poi in Australia, per raccontarvi una storia, l'avvocato del diavolo. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci. Police in Hong Kong have arrested dozens of protesters and fired rounds of pepper pellets after hundreds hit the streets over a controversial national anthem bill. This is probably the single biggest scandal to hit the Australian justice system in history. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono Antonio Talia, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, Elisabetta Fusconi in assistenza, in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, domande e commenti, WhatsApp ed SMS. Siamo anche sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano partiremo da Hong Kong per raccontarvi gli ultimi sviluppi del braccio di ferro dell'ex colonia britannica con Pechino. E poi ci sposteremo in Australia per raccontare una storia incredibile, forse il più grande scandalo giudiziario penale che ha abbracciato e sconvolto il nuovissimo continente. Forse per ribattezzare questa storia dovremmo davvero tirare in ballo una certa filmografia e raccontarla come l'avvocato del diavolo. 349-238-6666 per voi e sempre per voi. Andiamo a sfogliare i dossier internazionali. Il primo ci porta negli Stati Uniti, con Donald Trump, il presidente statunitense, che attacca Twitter e lo fa a muso duro. Due suoi twittate, infatti, sono state etichettate dal social media con un avviso che è quello che porta, ultimamente è cambiata la legislazione e anche le regole dei social media, a verificare i fatti. Twitter, secondo Donald Trump, sta così interferendo nelle elezioni presidenziali del 2020. Stanno dicendo, ha continuato Trump, che la mia dichiarazione sul voto per posta, che porterà a una massiccia corruzione alla frode, non è corretta, basandosi sul fact-checking delle, così le chiama, fake news CNN e del Washington Post. Twitter sta completamente sopprimendo la libertà di parola e io come presidente non consentirò che accada, ha aggiunto. Naturalmente, dall'altra parte, Twitter sostiene che i tweet del presidente non erano accurati e anzi contenevano basilari elementi di disinformazione. Ma Donald Trump si è spinto oltre, addirittura paventando la chiusura, pensate, dei social media, perché a suo dire vanno a tacitare e a zittire soprattutto i conservatori, i repubblicani, mentre secondo Donald Trump i democratici possono twittare e esprimersi. In sostanza il presidente americano lo mette sul diritto alla libertà di espressione. Non contento, appena Donald Trump ha saputo della notizia per cui il magazine The Atlantic non sta navigando in buone acque e sta licenziando il 20% dei suoi dipendenti, ha twittato appunto e ha accolto con gioia questa notizia dicendo che anche questo esponente della ampia cerchia dei propagatori di fake news è vicino al fallimento. Questo per ciò che riguarda Trump contro social media e media tradizionali. Invece, per quel che riguarda il ritiro statunitense dall'Afghanistan, il New York Times da qualche ora sta avanzando un po' di ipotesi. Secondo i cronisti del celebre quotidiano, Donald Trump vorrebbe ritirare le truppe entro il voto di novembre per, in qualche modo, evidentemente, appuntarsi sul petto alla medaglia del «abbiamo portato i nostri ragazzi a casa». Le sue ultime dichiarazioni ufficialmente non dà una data, però ha detto stiamo agendo come una polizia in Afghanistan, dopo 19 anni è il momento che il paese si controlli da solo. Intanto però il paese, che dovrebbe controllarsi da solo, sta imboccando quella perigliosa via fatta di scambi di prigionieri tra talebani e il governo di Kabul. Suhail Shaheen, che è uno dei portavoce dei talebani, ha commentato con grande favore il rilascio dei 900 prigionieri, lo ha bollati come un ottimo progresso sulla strada dell'accordo nazionale, però non si è pronunciato invece sul cessate il fuoco che aveva invocato il governo di Kabul. Il cessate il fuoco che era stato invocato all'inizio del Ramadan, finito due giorni fa, vedremo. È una storia, è un dossier che rimane sul nostro tavolo e che continueremo naturalmente a seguire. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. C'è qualcuno che stigmatizza con ironia quest'ultima presa di posizione del presidente statunitense. Minacciare la censura dei social media in nome della lotta a una millantata censura è straordinario. Così un ascoltatore. Torno tra pochissimo da voi, non prima di darvi conto, finalmente è arrivata la risposta ufficiale, non che ci accontenti e ci soddisfi particolarmente, comunque è arrivata la risposta ufficiale da parte di Mosca sulla addotta presenza di quegli 8 aerei militari da guerra che sono arrivati nell'est della Libia. Ricordate, anche nei giorni scorsi abbiamo descritto questo viaggio dalla Russia fino in Siria e dalla Siria, dopo essere stati camuffati, una nuova tinteggiatura, una nuova livrea per camuffarli meglio, sarebbero adesso operativi in Libia, pronti a essere pilotati da mercenari russi, ragionevolmente gente della Wagner, magari con expertise appunto di aviazione. La Russia smentisce, non ha inviato militari in Libia e al Consiglio della Federazione, che sostanzialmente è il Senato russo, non è mai stato chiesto di approvare tale dispiegamento. Lo ha detto il primo vicepresidente della Commissione Affari Esteri, Vladimir Zabarov. Nessuno invia mai militari russi all'estero senza l'autorizzazione del presidente russo e del Consiglio della Federazione e non abbiamo notizie di richieste in tal senso. Ora, a voler leggere tra le righe, in effetti militari russi sul terreno, sul territorio libico non ci sono, ed è proprio questa la grande ambiguità, malizia se preferite, di Vladimir Putin, perché infatti ha mandato, si dice, addirittura 1500 mercenari. Affidarsi a una società privata come la Wagner, ma non solo, ve ne sarebbero anche altre due, per gli affari sporchi, per così dire, lo metto tra virgolette, evidentemente permette di non avere una presenza ufficiale sul terreno. Staremo a vedere. E poi direi che se dovessimo scegliere un hashtag per etichettare quello che è successo nelle ultime ore a Minneapolis, me ne viene solamente uno, che è sdegno. Centinaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro la morte e la testimonianza, anche via video, la trovate sui social, di George Floyd, un afroamericano che è stato bloccato a terra dai poliziotti e letteralmente, lentamente soffocato sul selciato mentre gridava "non riesco a respirare, non uccidetemi", davanti a gente che riprendeva col telefonino impotente e cercava di dissuadere gli agenti da quell'azione. Una volta riverso sul selciato è arrivata l'ambulanza e gli agenti di polizia sono andati via. Adesso hanno fatto sapere, il governatore ha fatto sapere, che sono stati licenziati. Ho qualche dubbio che il licenziamento di questi 4 agenti possa calmare la giusta indignazione e reazione da parte soprattutto della comunità afroamericana di Minneapolis. Ho l'impressione che torneremo prestissimo su questo tema. Allora, questi sono i nostri dossier internazionali, sono temi che seguiamo da tempo qui nel Sul Luogo Lontano e che torneranno a essere puntate vere e proprie. Adesso però, Roberta, portaci a Hong Kong. La piazza di Hong Kong torna a scaldare i muscoli e in effetti l'atteggiamento è particolarmente aggressivo. Ce lo raccontava Nicola Longobardi, fotogiornalista freelance, spesso nostro ospite per darci l'ultimissime da Hong Kong. Si muovono come l'acqua, con la stessa fluidità, piccoli gruppuscoli attaccano, fanno atti di vandalismo, protestano e poi fuggono per evitare gli arresti. Non sono però serviti, perché fino adesso la polizia di Hong Kong, lo avete sentito dal GR, da Dario Ricci, è arrivata a arrestare oltre 240 persone. Segno che la tensione sta crescendo nuovamente, a dispetto anche dell'emergenza Covid-19, le piazze si stanno preparando. La data culmine sarà sicuramente la commemorazione per piazza Tiananmen, dico commemorazione evidentemente da parte degli hongkongesi e di tanti cinesi, non certamente per il regime di Pechino. Però si aggiunge un tocco che apparentemente sembra colore e ha a che fare con l'inno nazionale cinese. È Roberta Frisani sorride, ma tu non sai cosa hai fatto, Roberta. Tu in Cina andresti, anzi a Hong Kong, andresti difilato in prigione. Questo è a tutti gli effetti vilipendio dell'inno nazionale cinese. È proprio questo il punto, allora ci perdonerete questo piccolo divertissement, come al solito, in salsa metal. Buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano, Antonio Talia. Buongiorno Giampaolo a tutti gli ascoltatori. Allora, sembra poco più, ripeto, di un vezzo, di un divertissement. L'inno nazionale cinese viene normalmente suonato anche a Hong Kong in occasioni pubbliche, no Antonio? Magari la nazionale di calcio, e però viene spesso anche fischiato dagli hongkongesi. Cosa sta accadendo attorno all'inno nazionale? Dunque, effettivamente dalle proteste del 2014 l'inno nazionale, la marcia dei volontari, così si chiama l'inno nazionale cinese, viene sempre più contestato a Hong Kong, al punto che il mini parlamento locale, il Legislative Council, ha deciso pian piano di approvare una legge contro il vilipendio dell'inno. Questa legge sta arrivando a maturazione, è stata discussa oggi, e in qualche modo la popolazione di Hong Kong si sente stretta tra una formazione quasi a tenaglia, perché sappiamo che c'è l'articolo 23 da un lato, e poi ne parleremo, e poi questa legge sull'inno. In sostanza tutta una serie di norme che vengono applicate normalmente in Cina potrebbero essere estese a Hong Kong. Non si potrà per esempio più remixare l'inno nazionale, non si potrà storpiarlo. E tutto questo perché a partire dal 2015, in una serie di occasioni ufficiali, la gioventù hongkongese aveva sistematicamente fischiato l'inno cinese. Può sembrare una questione formale, ma non lo è. È una questione molto sostanziale, perché in qualche modo fa parte della cosiddetta educazione patriottica, che è quella che la Cina cerca di instillare a Hong Kong e che poi è stata in qualche modo l'origine di tutte le proteste. Nelle parole di Antonio Talia andiamo ad affrontare quello che è un tema importantissimo, anche l'influenza culturale cinese che, badate bene, andare a ragionare, Antonio lo sa bene, ci ha vissuto 7 anni, sulla cultura, sull'iconografia, sulle liturgie anche che il Partito Comunista impone, significa cercare di esplorare le radici profonde di quella realtà che, come diceva Antonio, adesso vogliono essere in qualche modo trasferite e per andare a distruggere quella teoria, quella tesi del un paese, due sistemi. Si scontra soprattutto con la recente cultura, diciamo, la recente rivisitazione storica. C'è una data che va a impattare su questo, che è proprio il 4 giugno, piazza Tiananmen. Antonio, come vedi l'evolversi delle proteste di Hong Kong relativamente a questa data molto molto simbolica? Allora, in qualche modo tutto quanto sta convergendo verso quella data. Tra il 3 e il 4 giugno, il 4 giugno ricordiamo è l'anniversario della strage di Piazza Tiananmen, a Hong Kong ogni anno si celebra una veglia, una commemorazione. Però quest'anno sarà sicuramente un anno molto particolare, perché da un lato questa legge di cui parlavamo sull'inno nazionale verrà discussa definitivamente al mini parlamento di Hong Kong esattamente il 4 di giugno, quindi la settimana prossima. Allo stesso tempo un altro elemento che collide verso quella data lì è l'altra legge, quella che è in discussione a Pechino, di cui abbiamo parlato molto in queste settimane, ossia il famigerato articolo 23, che se approvato, e probabilmente sarà così, dobbiamo solamente vedere in quale forma, di fatto riguarda tutta una serie di manifestazioni che possono essere considerate sovversione, che applicate normalmente a Pechino verrebbero estese a Hong Kong. Quindi, ripetevo, è una manovra a tenaglia in qualche modo, che converge tutta quanta verso le giornate tra il 3 e il 4 di giugno. Potrebbero protestare in piazza gli hongkongesi? Secondo l'articolo 23, se viene approvato, no. Però, appunto, stiamo vedendo già in queste ore che le manifestazioni stanno montando, e da qui a una settimana vedremo che cosa succederà. E naturalmente saremo qua per raccontarvelo. Grazie mille Antonio Talia per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, ma tanto sei qua dietro al vetro. Rimani con noi, Antonio Talia. 349-238-6666 invece per la vostra voce che arriva sotto forma di testo al 349-238-6666. Un MIG su 57, alcuni erano sono 6 MIG e 2 Sukhoi, non mi ricordo più la cifra, abbiate pazienza, non sono così esperto. Che vola comunque sui cieli della Libia, scrive un ascoltatore, dovrebbe essere facilmente individuabile via satellite, le bugie hanno le gambe corte, così un ascoltatore che evidentemente dubita di questa presenza. Stiamo mettendo anche noi tantissimi punti di domanda, attenzione. L'unica immagine satellitare fino adesso che pare comproverebbe la presenza di questi nuovi aerei è un'immagine di un aeroporto nella Cirenaica in cui si vedono velivoli mai visti prima. A ciò aggiungiamo, vi ricordate qualche giorno fa il generale Haftar ha detto preparatevi a una campagna aerea mai vista sulla Libia, insomma mettendo insieme un po' di strumenti di informazione, un po' di fonti, l'annuncio in pompa magna fatto da al-Sarraj che dice attenzione sono arrivati i russi con i loro aerei, insomma ci sono ragionevoli possibilità di pensare che ci possa essere una presenza. Che Vladimir Putin abbia imparato a usare Contratos da Bush e la sua Blackwater, così Manfredo da Firenze ironicamente, beh diciamo che è un utilizzo molto molto spregiudicato e su quello non c'è dubbio. Qualcuno torna su questa faccenda degli aerei, ripeto non sono così esperto, sono rottami, non aerei, staremo a vedere intanto se decolleranno, chi ci sarà la guida e se punteranno su Tripoli e se riusciranno a eludere l'antiaerea turca. Dobbiamo ricordare che l'apporto turco ha in qualche modo messo sotto scatto non soltanto la copertura aerea emiratina, ma è riuscita a spostare il fronte di Tripoli molto più a sud e in questo momento Haftar è, almeno dal punto di vista tattico, cioè sul breve periodo, in ritirata. Adesso, Roberta Fisani, andiamo in Australia per raccontarvi davvero una strana storia. Sapete che qua nel Sul Luogo Lontano abbiamo una particolare passione per il crimine organizzato e i cattivi in giro per il mondo. Antonio Tale ci ha appena lasciato, peraltro ha dedicato col suo statale 106 gli ultimi due anni di ricerche e una parte di queste ricerche era proprio dedicata all'Australia. Ma oggi vi raccontiamo una storia che abbiamo ribattezzato l'avvocato del diavolo. In realtà sulla stampa australiana è stata invece titolata come Lawyer X, cioè l'avvocato X. Di che si tratta? Beh, sostanzialmente del più vorticoso scandalo a base di doppi e tripli giochi che sta conducendo la società australiana a interrogarsi sul confine tra il rispetto della legge e l'abuso di potere. Il caso è scoppiato a marzo di due anni fa con un'inchiesta pubblicata dal quotidiano Herald Sun. Secondo questa inchiesta, per porre fine alla guerra tra gruppi mafiosi che ha insanguinato Melbourne tra il 97 e il 2010, la polizia di Melbourne ha cominciato a infiltrare dei personaggi. E fin qua direte voi nulla di nuovo, tutte le polizie del mondo, tutti gli investigatori usano infiltrati. Il problema è che quando tu vai a infrangere la barriera che in uno stato di diritto esiste tra la pubblica accusa e la difesa degli imputati, stai veramente facendo qualcosa di non soltanto innovativo, ma anche illecito. Secondo l'Herald Sun, una squadra segreta di poliziotti ha reclutato, coltivato e pagato un avvocato nascosto tra i pool della difesa dei più noti gangster della città. Questo avvocato lo chiameremo appunto Lawyer X. E così per anni Lawyer X ha violato il segreto professionale e la deontologia, giocando un pericolosissimo triplo gioco e mentre acquisiva informazioni dai suoi clienti per opportunamente difenderli in tribunale, passava allo stesso tempo le stesse informazioni alla polizia. Il problema è che, come spesso abbiamo ribadito, la verità giudiziaria, che magari è diversa da quella giornalistica e da quella fattuale, ha bisogno di una serie di regole, di procedure. Quando è emerso questo scandalo, si è andato a infrangere praticamente una serie incredibile di processi e persone imputati anche di gravi delitti che erano in carcere sostanzialmente potrebbero trovarsi da un minuto all'altro a piede libero. A proposito, non vi ho detto il nome, Lawyer X è Nicola Gobbo, che è una delle più note avvocatesse penaliste di tutta l'Australia ed è la nipote dell'ex governatore dello stato di Victoria, Sir James Gobbo. La Gobbo ammette di essere stato un informatore della polizia, era all'università, è stata reclutata dopo che era stata trovata in possesso di anfetamine. E mentre la Royal Commission accumula prove per stabilire le responsabilità dei vertici della polizia, i mafiosi accumulano domande di scarcerazione. La settimana scorsa è venuto il momento di Zlate Svetanowski, uno dei protagonisti della guerra di mafia degli anni 2000, che è a piede libero. Ma tra i criminali che hanno chiesto nuovi processi perché sono stati traditi da questa avvocatessa, c'è anche il superboss Tony Mokbel e tre importanti ndranghetisti italiani: Francesco, detto Mad Frank Madaffari, Pasquale, detto Pat Barbaro, e Saverio Zirilli, che sono gli autori del più imponente sbarco di ecstasy di tutti i tempi, 4.4 tonnellate di pasticche, che hanno viaggiato dall'Italia fino all'Australia e sequestrate poi nel 2007. Se vi state chiedendo il valore, beh, erano appena 300 milioni di euro. Ma che impatto sta avendo questo caso nel nuovissimo continente? Sentite la voce di Karen Sweeney, cronista giudiziaria dell'Australian Associated Press. Nicola Gobbo era un avvocato molto noto. Veniva da una famiglia di avvocati. Suo zio è stato governatore dello stato di Victoria. Sua sorella è ancora avvocato praticante. Ma la Gobbo era nota soprattutto per via dei suoi clienti. Infatti, ha difeso alcuni dei criminali più noti dello stato di Victoria. Quindi, di conseguenza, Nicola Gobbo è diventato un volto noto in quella che chiamiamo la guerra tra gang per il controllo del territorio a Melbourne. Si tratta di alcune bande rivali che hanno ucciso molte persone, anche in luoghi pubblici. Nicola Gobbo ha difeso un gran numero di questi criminali ed è diventata famosa per l'abilità con cui riusciva a tirarli fuori su cauzione, in modo tale che fossero rilasciati prima dell'inizio del processo. Quindi la Gobbo si è costruita la reputazione di essere una specie di avvocato del mondo criminale. In Australia si sta parlando molto del caso e si può dire che l'opinione pubblica si è divisa in due fronti principali. La maggior parte concorda sul fatto che ciò che ha fatto sia stato terribile, è un chiaro esempio di corruzione, oltre a dubitare dell'efficacia della polizia. Un'altra parte dell'opinione pubblica, però, ritiene che il fine giustifichi i mezzi. Le sue informazioni sono state essenziali per la polizia nel porre fine alle guerre tra gang di Melbourne per il controllo del territorio. Si può dire che alla fine la comunità ne abbia giovato. Contemporaneamente, però, ora siamo al punto in cui diversi criminali possono fare ricorso contro le sentenze che li hanno incarcerati, chiedendo di essere rilasciati, dato che la polizia, in quell'episodio, non ha agito correttamente e secondo la legge. Lo scorso anno è stata anche aperta un'inchiesta da parte di una Royal Commission sull'accaduto, che ha messo in luce alcuni aspetti interessanti di tutta la vicenda. L'identità di Nicola Gobbo è stata mantenuta segreta fino a febbraio dello scorso anno. Di conseguenza è un tema di cui le persone hanno parlato molto e dato che il rapporto finale sul caso verrà pubblicato alla fine di quest'anno, credo se ne continuerà a discutere per molto tempo. Lawyer X, il caso che sta sconvolgendo l'Australia, il nuovissimo continente, un qualcosa di incredibile, si è andato a violare quello che la deontologia professionale, si è andato a violare quella barriera che dovrebbe essere sacra in uno stato di diritto fra accusa e difesa, ma al di là di questo si sta permettendo la scarcerazione di grandissimi criminali. Quali effetti ci saranno? Intanto avete sentito la voce di Karen Sweeney, cronista giudiziaria dell'Australian Associated Press. Tra pochissimo sentirete la voce di Anna Sergi, criminologa dell'Università dell'Essex, specializzata proprio in criminalità, specialmente calabrese, nel mondo. Prima andiamo a sentire la borsa e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, una prima pagina dedicata a quello che sta accadendo ora dopo ora a Hong Kong, non da ultimo la ciliegina sulla torta, la possibilità di criminalizzare ulteriormente il vilipendio all'inno nazionale. L'abbiamo raccontato con Antonio Talia, aspettando all'orizzonte, molto vicino devo dire, è il 4 giugno, l'anniversario di Piazza Tiananmen. Staremo a vedere come la piazza di Hong Kong reagirà. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Molti sono relativi alla situazione di Hong Kong. C'è qualcuno che si domanda come sia possibile che Donald Trump sia alla presidenza della più grande democrazia del mondo. Qualcun altro che scrive: Pat Barbaro, e vengo alla pagina australiana, è stato ucciso nel 2016 e non può uscire. È vero, quel Pat Barbaro, peccato che ce ne siano altri tre, cioè in tutto erano quattro, stesso nome e cognome, sostanzialmente sono familiari, sono tutti, chiedo anche Lumi, Antonio Taglia, tutti andranghettisti, certo, tutti in Australia. E per cui è facile anche confondersi. C'è anche un problema dal punto di vista giuridico e delle procedure, quando hai quattro omonimi, immaginate voi. Comunque vi confermo la notizia che vi ho dato. 349-238-6666. Ero un po' deciso se rispondere a questo messaggio, questa piccola provocazione. Musumeci, non hai nemmeno camuffato il tuo profondo desiderio che scoppino rivolte negli Stati Uniti e il tuo odio verso Trump, ma non eravate buoni, i buoni voi comunisti. Guardi, gentile ascoltatore, abbia pazienza, non per scortesia, ma è l'ultima volta che rispondo a un messaggio come questo, che è di una pochezza incredibile. Io ho detto solo una parola, che è sdegno. Sdegno per il fatto che c'è stato la morte di un afroamericano, l'ennesima, l'abbiamo raccontato tante volte, davanti agli occhi attoniti di cittadini di Minneapolis, e i quattro poliziotti responsabili, per il momento presunti, ma le prove direi che sono abbastanza indicative, sono stati semplicemente per il momento licenziati. E poi ho detto, ho l'impressione, visto che sono già scoppiati scontri a Minneapolis, che torneremo ancora sull'argomento. Tutto qua. Poi guardi, se lei mi vuole etichettare come comunista, la prego di sostanziare un pochino meglio questa etichetta, perché così mi sembra proprio, non so nemmeno se è un'accusa, mi sembra totalmente vuota. Detto ciò, non perdiamo altro tempo, andiamo nell'Università dell'Essex con Anna Sergi, criminologa. Buongiorno Sergi, benvenuta a Nessun Luogo. Buongiorno a voi. Abbiamo provato a raccontare, Anna Sergi, quello che è il più incredibile scandalo che ha colpito la storia recente australiana. Perché la polizia dello Stato di Victoria lancia un'operazione così spregiudicata ma anche spericolata? Perché nel momento in cui venisse a galla questo triplo, doppio gioco, insomma, i risultati li stiamo già vedendo. Perché un azzardo così forte da parte delle forze di polizia? Allora, questa è una domanda interessantissima, ce lo stiamo chiedendo un po' tutti in realtà, non credo ci sia una risposta univoca. Sì. Principalmente uno dei più grandi problemi della Victoria Police è l'incapacità di condividere informazioni tra le proprie unità. Quindi quello che è successo, quindi non solo il fatto di aver avvicinato un avvocato in questo caso, ma soprattutto di averne eliminato le prove, diciamo, della sua quello che lei stava dicendo dagli archivi della polizia. Sì. È un combinato disposto di varie cose, tra cui il fatto che a un certo punto, per la sua protezione, il suo nome è stato rimosso e cambiato all'interno di alcune procedure, per alcune procedure a nome della corte. Quindi non credo ci sia stato unicamente dietro questa cosa, credo ci sia stato, come spesso succede a Melbourne, potrei dire, una sorta di opportunismo misto a laissez-faire, della serie stiamo avendo i risultati che vogliamo, questa cosa perché mai dovrebbe uscire. Sì. E tendenzialmente è durata un po' troppo, ecco, la mia impressione è che sia durata molto. Non ci scordiamo, parentesi, che sì, la Royal Commission al momento sta indagando non solo su Nicola Gobbo, ma su altri ufficialmente 8, inclusa lei, avvocati che si trovano in una situazione molto simile, quindi non è una cosa, diciamo, un unicum, potrebbe essere un proprio unicum, un sistema, quasi una procedura consolidata, sai che c'è. Sì. Quasi quasi l'avvocato potrebbe essere un'ottima fonte, esattamente, figuriamoci esattamente se non lo sì è. Quindi a questo punto verrà da chiedersi se non è semplice leggerezza, ma appunto spregiudicatezza e forse anche un senso di impunità, mi immagino, perché condurre, come lei diceva giustamente Sergi, per così tanti anni un'operazione sotto copertura, sappiamo che prima o poi le coperture saltano, no? Sergi, le propongo di andare a sentire ancora la collega dell'Australian Associated Press, Karen Sweeney, che sì ha seguito molto da vicino questo caso giudiziario, perché adesso c'è, al di là, come dire, dell'opportunità e della gravità di questo comportamento da parte degli organi di polizia, c'è il risultato. Il risultato qual è? E beh, che i malviventi potrebbero uscire. In questo momento decine di criminali condannati in carcere presentano appello. Perché? Perché la condanna, quando essi sono stati difesi da Lawyer X, difesi dovrei dire in realtà poi accusati, non ha più valore. Sentite cosa dice la giornalista. This has been a bit of a PR nightmare for police. Sul piano dell'immagine, questo è stato una sorta di incubo per la polizia. Il loro atteggiamento, quando la vicenda è iniziata a venire a galla, è stato: facciamo finta di niente e vedrai che verrà dimenticato. Diventa un problema solo se iniziamo a dire che stanno facendo ricorso contro la sentenza e via dicendo. E in realtà è quello che sta accadendo proprio ora. L'impatto che questa vicenda avrà sul sistema giuridico è ancora in fase di elaborazione al momento. L'anno scorso Rick Orman è stato assolto per omicidio dopo che la corte ha scoperto un abuso giudiziario. In questo caso Nicola Gobbo era l'avvocato di Orman, ma allo stesso tempo era anche l'avvocato dell'uomo che ha testimoniato contro di lui. Quindi questo è un caso molto ovvio in cui qualcosa è andato storto e la Corte ha riconosciuto che si sarebbe potuto ordinare un nuovo processo. Non è stato fatto perché gli stessi giudici hanno ammesso che sottoporre Rick Orman a un altro processo non sarebbe stato corretto. Ma in questo caso ci sono in atto altri 6 casi di ricorso a causa di Lawyer X. La scorsa settimana il gangster Zlate Svetanoshi è stato rilasciato su cauzione. Ha scontato quasi tutta la sua pena per traffico di droga e sostiene che se il tribunale ribalta la sua condanna, costringendolo a trascorrere più tempo in prigione, ora sarebbe ingiusto. La corte gli ha dato ragione e ha permesso la scarcerazione. Ha comunque dovuto versare una cauzione di $400,000, quindi se cerca di fuggire gli costerà caro in termini economici, però è libero. Ci sono molti altri condannati che stanno preparando ricorsi. Si tratta di un processo molto lungo. Molti di questi ricorsi sono iniziati nel 2017 e non sono ancora pronti per andare in aula. Ci sono molte prove che devono essere raccolte. Ci sono alcuni casi davvero grandi e difficili che coinvolgono molte persone. Uno dei più importanti casi di ricorso coinvolge diverse persone condannate per l'importazione da Napoli nel 2007 di 15 milioni di pillole di ecstasy nascoste in lattine di pomodoro. Ci sono state 32 condanne per quel caso. L'intera sentenza, in sostanza, si basa essenzialmente su un documento che Nicola Gobbo ha ricevuto da uno dei suoi clienti e che poi ha trasmesso alla polizia. Quindi è un caso davvero complicato e durerà a lungo. Quindi dovremo mantenere l'attenzione alta per capire cosa accadrà, ma potenzialmente potremmo finire in una situazione in cui molte di queste sentenze verranno annullate. I tribunali potrebbero ordinare nuovi processi o potrebbero semplicemente dire: queste persone hanno già scontato lunghe pene. Quindi, come nel caso di Rick Orman, sottoporre un nuovo processo non sarebbe giusto. So, like for Rick Orman, to make them go through a new trial would just be too unfair. Questa è la voce, il racconto di Karen Sweeney dell'Australian Associated Press. Fatemi però tornare da Anna Sergi. Dalla cronista giudiziaria alla criminologa, da un lato c'è chi raccoglie i fatti, li racconta ora dopo ora, soprattutto per un'agenzia di stampa come la Associated Press, e poi c'è chi, il criminologo, che prova, come dire, a aggregare i dati con maggiore lucidità e rigore scientifico per cercare di fare cosa? Beh, di fotografare la grande dinamica criminale. Anna Sergi, c'è una presenza fortissima dell'andrangheta in Australia, perché? Perché? Perché è una bella domanda. Innanzitutto ci sono, diciamo, due rami di 'ndrangheta in Australia, mettiamola così. Uno, che è quello portato dall'interno, purtroppo, di alcuni flussi migratori dopo gli anni 50. Questo flusso, diciamo, è una sorta di 'ndrangheta 2.0, un'evoluzione dell''ndrangheta che fino agli anni 50 era quella che noi conoscevamo anche in Calabria. Dagli anni 50 in poi in Australia è diventata altro. Poi c'è una nuova, diciamo, fase dell''ndrangheta, una nuova 'ndrangheta con le nuove generazioni, che è un po' quella che ha ereditato ovviamente gli insegnamenti dei patriarchi e ha iniziato a spostarsi al di fuori dell'Australia, perché l'andrangheta per molto tempo, diciamo, è stata anche molto devota e tuttora molto devota agli affari interni all'Australia. Quindi ci sono varie motivazioni sul perché questo accada. Una di queste è sicuramente la giovane età dell'Australia. Secondo una nota di carattere, l'Australia è uno stato dal 1901, ufficialmente, il 1922 è la data fittizia, 15 dicembre 1922, dell'arrivo della nave Red Italia, King of Italy, a Fremantle, Adelaide e Melbourne, che porta i tre, diciamo, i tre calabresi che fondarono l'andrangheta. C'è molta leggenda ovviamente, però è chiaramente parte della crescita dello Stato. E insomma si evince come a volte anche la giovinezza della nascita di uno Stato, la collocazione geografica possano essere una formidabile opportunità per carriere criminali, che in questo momento il grandissimo scandalo, Lawyer X, lo ripeto, Nicola Gobbo, questa avvocatessa che ufficialmente stava difendendo alcuni dei criminali più importanti sul territorio australiano, ma stacco, se fosse un film, flashback, torniamo indietro 15 anni prima, trovata in possesso di anfetamine mentre all'università, decide di ingaggiarsi, di collaborare con la polizia e dietro pagamenti, dietro corrispettivi, diventa a tutti gli effetti un'infiltrata. Anna Sergi, rimanga con noi, andiamo a sentire le strade italiane, ho l'ultima domanda per lei. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in quest'ultima pagina di Nessun luogo lontano. Continuiamo a analizzare quello che è il più grave scandalo giudiziario che sta colpendo l'Australia. C'è grande dibattito anche sui media australiani. Siamo davvero dall'altra parte del mondo, ma la missione di questo programma è proprio avvicinarvi anche a storie apparentemente lontane. E se qualcuno dovesse obiettare, ma tanto non ci riguarda, beh, ecco, sappiate che c'è una filiale corposa dell''Ndrangheta calabrese che da anni, da decenni lavora in Australia. Alcuni esponenti, alcuni membri dell''Ndrangheta sono coinvolti in che cosa? Nel caso Lawyer X. Potremmo ribattezzarla, se dovessimo noi scrivere adesso la prima pagina di un quotidiano australiano, forse l'avvocato del diavolo. Doppio, triplo gioco, da difensore a sostanzialmente accusatore sotto copertura. 349-238-6666, un'ascoltatrice, Marina da Milano, chiede, scrivendo, forse ricordo male, non è stato in Australia che negli anni passati hanno sciolto comuni per infiltrazioni in 'Ndrangheta e che da anni la 'Ndrangheta in salsa australiana ha un grande successo? Confermiamo assolutamente, mi faceva accenno pochi istanti fa proprio lo stesso Antonio Taglia. Fatemi tornare però da Anna Sergi, criminologa, Università dell'Essex, specializzata proprio nella criminalità calabrese nel mondo. Con lei stiamo andando in Australia per andare a capire tutte le opportunità che la 'Ndrangheta non solo è riuscita a cogliere. Quali possibilità ci sono, Anna Sergi, che alcuni dei personaggi più grossi dello smercio di ecstasy, stavamo ricordando Frank Madaffari, Pat Barbaro, appunto non quello morto nel 2016 ma un altro ancora, e Zirilli, possano uscire di prigione grazie a questo strano cortocircuito del Lawyer X? Le possibilità ci sono, ma non sono così alte come si può pensare. Innanzitutto la loro condanna nasce da un'operazione di polizia molto molto lunga, che si chiama Operazione Inca, che è un'operazione della Federal Police e non della Victoria Police. C'è una minima parte della loro condanna che riguarda Victoria Police e di conseguenza Nicola Gobbo. Quindi, per quello che so io, la parte, diciamo, che potrebbe in qualche modo creare a queste persone purtroppo una... Non il risultato sperato, se dovessero fare appello, quando faranno appello, è che in realtà l'indagine che è stata condotta dalla Polizia Federale è quella decisiva nella loro condanna e non quella della Vic Police. Questo è un altro problema. Però ci sono delle situazioni molto personali di questa faccenda che andranno sicuramente a smuovere tutto l'underworld di Melbourne, perché non ci scordiamo che tutta questa cosa di Nicola Gobbo è venuta ad essere perché c'era in atto nei primi anni 2000 una lotta intestina tra due fazioni diverse. Da una parte la Carlton Crew e Moran, dall'altra parte Williams, Tony Mockbell e poi gli 'ndranghetisti associati a Tony Mockbell, che è, diciamo, il number one. Tony Mockbell potrebbe uscire, e se esce Tony Mockbell questo cambierebbe le cose anche per la nostra 'Ndrangheta, perché al momento non si trova proprio in una situazione agevole. Quindi ci sono delle situazioni che, a prescindere dal fatto che esca o no queste tre persone in particolare, si possono creare delle situazioni per cui la 'Ndrangheta risentirebbe all'interno dell'equilibrio che adesso c'è stato. Certo, ed è incredibile. E se mi permette l'ultima cosa, prego. Scusami. C'è una parte di questa faccenda che non è molto chiara, forse, quando è stato scoperto il caso di Gobbo due anni fa, c'era appena stato un omicidio due anni prima, nel 2016, di un altro avvocato a Melbourne, Joe Acquaro. Joe Acquaro è stato ucciso in teoria perché aveva collaborato con la polizia, e parte di questa inchiesta insieme a Nicola Gobbo, il cosiddetto dead lawyer, l'avvocato morto, ed è stato ufficialmente ucciso dalla 'Ndrangheta, anche se per il suo omicidio è sotto processo una persona, un altro calabrese, che non sembrerebbe avere dei contatti con la 'Ndrangheta, ma per lungo tempo si è indagato sulla 'Ndranghetista di per sé. Quindi ci sono delle situazioni all'interno della proprio della una tensione tra il mondo criminale di Melbourne e i suoi avvocati, quasi tutti italiani tra l'altro, sì, o di italiani di quarta generazione, che porterà sicuramente a uno sfacelo del sistema giudiziario. Grazie mille Anna Sergi, criminologa Università di Essex, per aver svelato almeno in parte quello che è il lato oscuro dell'Australia. Grazie mille Anna, buona giornata. Grazie a voi, buon e lavoro. Buon lavoro. Allora, 349-238-6666, ma questa avvocatessa bionda e altera non ha nessuna paura della vendetta dei mafiosi che ha tradito, così scrive Marco. Figura molto controversa, nella chiacchierata che abbiamo fatto con Karen Sweeney ci ha anche rivelato che era molto sola, aveva quasi un rapporto personalistico con la polizia che lei stessa andava a informare, non aveva amici, con la sorella non parlava più, e a un certo punto pare, ma qui insomma tutte illazioni da parte dei cronisti, che sostanzialmente causa una vicenda privata in cui sapeva in anticipo di un omicidio che poteva essere commesso, non lo ha rivelato alla polizia, si è sentita in colpa, ha cercato di rimediare. Altra tesi è: aveva paura di una serie di mafiosi che continuava a difendere, minacciata dagli altri clan, dai clan avversari, ha deciso di iniziare a aiutare la polizia. Detto ciò, in 90 secondi vi faccio sentire l'Australia come grande terra di opportunità criminali. Australia, da colonia penale dell'impero britannico ai confini del mondo, ha obiettivo dei traffici internazionali del crimine organizzato mondiale. Grazie alla forte vocazione migratoria del paese, la costellazione criminale australiana vanta una rilevante eterogeneità, ma un unico comune denominatore: il traffico di droghe. In un paese dove il tasso di utilizzo pro capite di sostanze stupefacenti è tra i più alti al mondo. Tra gli anni 80 e 90, l'organizzazione criminale vietnamita, nota come T5, controlla il traffico di eroina a Sydney. Ma dopo il suo smantellamento, gruppi minori si sono dedicati alla produzione e allo spaccio di marijuana. Oggi il traffico di oppiacei sembra essersi spostato dal Triangolo d'Oro, Thailandia, Laos e Myanmar, alle coltivazioni afghane della cosiddetta mezzaluna dell'oppio, mentre in Australia convivono gang di autoctoni e gruppi come le triadi cinesi, gli Sword Boys, di origine libanese, e The Last Hour, che raccoglie altri criminali di origine mediorientale. Il 2020, però, segna il centenario della presenza di un'altra importante organizzazione criminale, l''Ndrangheta. Correva l'anno 1920 e nel porto di Melbourne attraccavano i primi battelli carichi di immigrati italiani, tra cui alcuni pionieri delle infiltrazioni del nuovissimo continente. Questa eterogeneità era destinata a esplodere in quelle che tutti ricordano come le guerre di gang di Melbourne. Tra il 1998 e il 2010, in vari agguati, muoiono in 36. Tra gli appartenenti alla storica famiglia criminale australiana dei Williams, gli irlandesi della famiglia Moran, gli slavi di Nick Radeff e gli italiani dell''Ndrangheta, scoppia una guerra che coglie impreparate le forze di polizia di Melbourne e lo stato di Victoria, e i cui effetti durano ancora oggi. E con questa fotografia vivida e spero sufficientemente icastica e chiara abbiamo svelato un altro pezzetto dei lati oscuri australiani, ma adesso Roberta Frisani ho l'impressione che mi lancerà un messaggio. Al quale obbedisco ringraziando tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, soprattutto voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è per domani, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.